Santi e bevitori, Lawrence Osborne, Adelphi. Osborne è ormai un aficionado, anzi direi un habitué, come si dice di chi sta molto al bar, e di bar, e di alcol, e di bevitori, e di produttori di vino, e di liquori, e di altre bevande. Si parla in questo meraviglioso libro che in realtà risale, mi pare, a una decina d'anni fa, ma Adelphi sta riproponendo tutta l'opera di Osborne a una media di uno o due libri all'anno, quindi arrivano quelli nuovi, ma arrivano anche dei ripescaggi. E questo è un'indagine divisa per una decina di capitoli. Un'indagine intorno all'alcol, ma con la caratteristica di parlare soprattutto di luoghi in cui l'alcol non viene bevuto o addirittura è proibito, anzi non viene bevuto perché è proibito, e cioè paesi in grande parte di religione islamica. Non c'è solo questo, ma c'è anche questo. È un libro bello perché è frammentario eppure con una linea unica, e si legge come si dice, quasi come un romanzo, con al centro sempre questo nostro spericolato cronista Osborne che prova e vuole inebriarsi sostanzialmente. Si va da racconti della sua infanzia, di sua madre, grande bevitrice, passando per il tentativo di bere a tutti i costi, trovare a tutti i costi una bottiglia di champagne in Oman durante un capodanno con la sua fidanzata. Si passa poi a un racconto di estrema indigenza e povertà del protagonista, del nostro personaggio, quando vive a New York e non riesce a procurarsi da bere, fino ad arrivare alle situazioni più spericolate, soprattutto in Pakistan, in Indonesia, e in varie altre regioni della terra dove bere è vietato. È un libro che è nostalgico verso il suo passato, elegiaco, arguto, intelligente, pieno di intelligenze, frasi intelligentissime intorno al motivo per cui si beve, e che sono però nascoste come dentro il testo, sono piccole gemme incastonate, mai ostentate, ed è tutto sommato, direi, un piccolo capolavoro. Chiuditi a riccio, non leggere più niente, ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol, edizioni Terra Rossa. Un libro molto intenso che racconta una perdita, nello specifico la scomparsa di due figli, ma lo fa in maniera originale, raccontando il punto di vista delle cose che abitano la casa in cui questi figli vivevano. Il libro è diviso in stanze, ognuna delle quali presenta degli oggetti, e ogni oggetto ricostruisce un episodio della vita della famiglia, ma anche il modo in con cui la tragedia, ossia la scomparsa appunto dei due ragazzi, è avvenuta. Un libro che riesce a raccontare la storia di una famiglia dando dignità alle cose che ci circondano. Un libro figlio di una riflessione sull'ambiente domestico che in questo periodo è molto contemporanea. Basta pensare a un altro libro ambientato in casa che è Locus Desperatus di Michele Mari. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Operazione Shylock di Philip Roth, pubblicato da Einaudi, un libro strano, stranissimo, uscito nel 1993, che ha un sottotitolo forse fuorviante, forse no, che è Una confessione. Vediamo Philip Roth, che si mette in scena sulla pagina. Oggi lo chiameremmo autofiction, forse anche nel 1993, ma forse il termine era meno di moda. Parte Philip Roth per Israele perché deve intervistare uno scrittore, Aaron Appelfeld, e si rende conto, una volta giunto a Gerusalemme, che c'è un altro Philip Roth, c'è qualcuno che si spaccia per lui e che si sta innestando nei gangli del conflitto annosissimo tra Israele e Palestina, tra il sionismo e il cosiddetto diasporismo. Nel frattempo c'è anche sempre in Israele un processo contro un presunto criminale di guerra nazista e c'è tutta questa frammistione ad altissimo grado di pericolosità tra realtà e finzione. Sembra all'inizio di essere catapultati nel Sose di Dostoevskij, libro che ho amato moltissimo, ma in qualche modo si va anche oltre e ci si perde in questo labirinto da cui però si esce, o forse non si esce, con tutta una serie di visioni più profonde, ma anche proprio sulla storia, sul contemporaneo, ahi noi, ancora molto attuale di quella zona del mondo. Un libro perfetto per causarsi un'insolazione, anche se lo si legge all'ombra di un ombrellone. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio di leggere Con gli occhi rivolti al cielo di Zora Neale Hurston, edito dalla Tartaruga. È un libro del 1937 che a lungo è stato fuori commercio in Italia e proprio in questi giorni è uscito in questa nuova edizione. Zora Neale Hurston è una figura centrale della letteratura afroamericana e femminista del primo Novecento e fu tra le prime a raccontare il sud rurale delle comunità nere dall'interno, come avviene appunto in questo romanzo. Un elemento particolarmente interessante della sua scrittura è l'uso della lingua. Lei sceglie di riportare fedelmente lo slang e il linguaggio di strada. Per questa scelta viene contestata da gran parte dei critici e degli autori afroamericani dell'epoca, cioè dalla sua stessa comunità di intellettuali. Perché purtroppo la riproduzione del linguaggio di strada era sempre stata utilizzata dalla letteratura bianca per promuovere degli stereotipi razzisti, rappresentando quindi questi personaggi neri come incapaci di parlare un inglese corretto. Tuttavia, la scelta di Hurston nasce dalla sua formazione e attività di antropologa, che la spingevano a registrare la realtà cercando di manometterla il meno possibile, non solo nei suoi studi, quindi, ma anche nella narrativa. Un altro elemento peculiare della scrittura di questa autrice e di questo libro in particolare è l'umorismo. Anche se non mancano ovviamente i momenti drammatici, ci sono molte scene di vita quotidiana segnate da una grande comicità. Anzi, l'umorismo è talmente rilevante che la crescita e l'emancipazione della protagonista passano anche attraverso una sorta di appropriazione dell'allegria, che per lungo tempo le era stata preclusa a causa di un matrimonio infelice.